Carissimi ascoltatori, buonasera. Oggi cominciamo una breve spiegazione del credo o simbolo degli apostoli. Incominciamo con la proclamazione del credo nella formula breve, quella più antica. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Incominciamo ponendoci qualche domanda. Che cosa credono esattamente i cristiani? Qual è il contenuto fondamentale della loro fede? Ancora, la fede è solo un fascio di credenze o l'adesione personale e vitale a Dio? Qual è la buona notizia o Vangelo che dobbiamo vivere e predicare agli uomini di oggi? E ancora, possiamo continuare a parlare del Dio vivo usando un linguaggio morto, superato, che l'uomo del XX secolo non comprende più? Ecco allora la risposta a queste domande e a tante altre. Il credo, o simbolo degli apostoli, è la sintesi della fede cristiana. Su queste verità fondamentali dobbiamo trovarci tutti d'accordo per essere cristiani cattolici. È necessario che interpretiamo nuovamente e riesprimiamo la fede eterna con le immagini, le idee e il linguaggio familiari alla gente di oggi, del nostro tempo, con le parole di tutti i giorni, senza fare cose difficili, meno ancora astruse. Questo significa predicare il Vangelo ad ogni creatura, concretamente agli italiani del 1997. Predicare il Vangelo ad ogni creatura perché tutti sentano annunciare nella propria lingua le grandi opere di Dio e perché ognuno sente e comprenda. Non basta parlare italiano o parlare dialetto, bisogna anche parlare in un modo comprensibile, con delle parole che tutti possono comprendere giustamente, perfettamente. Per fare questo anche non dobbiamo sparpagliarci sulle tante, tantissime verità, magari periferiche della fede, ma dobbiamo concentrare il contenuto della fede, annunciare il nocciolo centrale del cristianesimo, e vi dico subito di che cosa si tratta. Il nocciolo centrale del cristianesimo è Dio, Dio Padre, Gesù Cristo, lo Spirito Santo. E Dio Padre, Gesù Cristo e lo Spirito Santo sono persone, non sono cose, non sono idee astratte, per cui, cercando di spiegare il credo, noi parliamo di persone vive, vivissime, che sono la sorgente della vita, del mondo creato, di noi uomini. La fede, quindi, non è un elenco di affermazioni, di dogmi, è invece l'incontro con le tre persone divine e il legame personale e vitale con esse, è l'introduzione nel loro mistero. Dobbiamo, spiegando il credo, entrare in Dio. Vi dico subito l'espressione: io credo in Dio Padre, credo in Gesù Cristo, credo nello Spirito Santo, è un complemento di moto al luogo, ossia indica un movimento che noi dobbiamo fare per andare verso Dio, per entrare in Dio, per mettere radici profonde in Dio, per essere saldamente edificati sul fondamento, sulla roccia che è Dio. E la stessa formula del battesimo ci dice: Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che significa io ti immergo totalmente dentro nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, come un bambino immerso nell'utero materno, nelle acque materne. E allora la fede, il credo è entrare in Dio, o se volete, come ci insegna Sant'Agostino con una bellissima sintesi, diceva la fede è entrare in Lui, oppure è Cristo che entra dentro di noi. I due, io e Cristo, dobbiamo diventare una carne sola, una persona sola. Di più, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e me dobbiamo diventare una cosa sola. L'aveva chiesto Gesù nella preghiera, nel suo testamento: Padre, fa che tutti i credenti siano una cosa sola tra di loro, come io e te siamo una cosa sola. Voi dite, ma qui si incomincia già a parlare di mistero, e mistero vuol dire una realtà in cui non ci si capisce niente. No, piano. Il mistero non è una porta chiusa contro la quale andiamo a sbattere la testa, ma anzi, al contrario, è l'apertura su una realtà talmente grande che non riusciamo a comprendere, a godere pienamente, perché è una realtà inesauribile. Sant'Agostino, cercando di dare una spiegazione del mistero, diceva alla sua gente: il mistero è una realtà di cui non riusciremo mai a capire tutto, ma di cui possiamo capire qualche cosa. Ecco, allora tocca a noi, alla nostra generosità, alla luce dello Spirito Santo, al buon uso del nostro cervello, inoltrarci il più possibile nel mistero di Dio, in Dio. E l'uomo non è che debba venire da chissà dove per incontrare Dio, perché ognuno di noi, ogni uomo, è immerso nell'infinito oceano del mistero di Dio, come ci insegna Paolo Apostolo nel suo discorso all'Areopago di Atene, in Atti degli Apostoli, capitolo 17, dice: in Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Quindi noi siamo già immersi in Dio. La spiegazione del credo deve renderci consapevoli di essere già immersi in Dio e di aprirci a Dio perché possa entrare completamente nella nostra vita. Se mi permettete un esempio, una bottiglia tappata, buttata nell'oceano, è sì immersa nell'acqua, però resta vuota e galleggia. Se noi leviamo il tappo e si riempie di acqua, va a fondo ed è completamente immersa dentro nell'oceano e riempita dell'acqua dell'oceano. Ecco, noi chiediamo a Dio in questa spiegazione che ci levi il tappo di chiusura che impedisce a Dio di entrare nella nostra vita, finché veramente possiamo dire come Paolo: in Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Dio è qualcuno, è una persona, più precisamente dobbiamo dire sono tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Diciamo è qualcuno, è una persona, già per dire in partenza non è una cosa, non è un oggetto di studio, non è un oggetto da sezionare. Dio è il vivente, tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Dire che Dio è qualcuno è forse la migliore traduzione del io credo in Dio. Io cammino verso Dio che è mio Padre, io corro incontro al Padre. Questa prima espressione del credo, su cui ci soffermeremo questa sera, potrebbe essere raffigurata da quello che succede nelle buone famiglie, quando il padre ritorna dal lavoro la sera e il bambino o la bambina gli corrono incontro ed egli si curva su di loro, li prende in braccio e se li stringe a sé. Credo in Dio vuol dire corro verso Dio mio papà, che mi viene incontro perché gli voglio bene, perché io sto bene tra le sue braccia, immerso totalmente nelle braccia del papà. Dio ha voluto farci sapere che Egli è un essere vivente, anzi il vivente, la sorgente di ogni vita. Dio vive, agisce, ama. Sappiamo dal Vangelo di Matteo, dal Vangelo di Giovanni, per esempio, che questo Dio è con noi sempre, tutti i giorni, fino alla fine del mondo, e che noi saremo sempre con Lui. È scritto anche nella prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Allora, chi recita il credo non elenca delle idee astratte, dei concetti, dei dogmi, ma richiama delle persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e anche noi che siamo la Chiesa, richiama dei fatti, una storia. Dio ha creato, Cristo è diventato uomo, è morto, è risorto, è salito al cielo, ha mandato lo Spirito. Sono fatti questi, non sono teorie o astrazioni. In altre parole, il credo è la proclamazione delle gesta di Dio, delle grandi opere, delle opere meravigliose di Dio. Dalla creazione, credo in Dio Padre onnipotente, creatore, sino alla fine dei tempi, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà alla fine del mondo, quando andremo tutti in paradiso. Il credo ci presenta, e questo ci deve fare felicissimi, un impegno di Dio in nostro favore per amore. Dio ce la mette tutta, mette la sua potenza infinita per la salvezza di noi uomini, per la nostra realizzazione. Al centro del credo stanno la morte e la risurrezione di Cristo, la verità fondamentale della nostra fede, la Pasqua di Cristo. Questo è il fatto essenziale, la notizia meravigliosa che deve essere gridata a tutti, perché costituisce l'atto stesso della salvezza. Dio si è fatto uomo e ci ha amato fino alle estreme conseguenze, fino a morire umiliato su un patibolo per noi che eravamo peccatori e nemici suoi, per liberarci dal peccato, farci figli di Dio e salvarci tutti. Questo fatto capitale, importantissimo, si presenta come un avvenimento storico debitamente constatato. Occupa il centro del kerygma. Voi di tu che brutta parola. Kerygma, dalla lingua greca, vuol dire ciò che si grida innanzitutto quando si annuncia la buona novella, la notizia quasi come un titolo, in poche parole. Che cosa dovrebbe dire un cristiano per annunciare il Vangelo, per fare una prima sintesi? Vi annuncio Dio diventato uomo, morto e risuscitato. Ecco, questo fatto fondamentale del credo, la morte e la risurrezione di Cristo, sono la verità essenziale, il fatto essenziale della nostra fede cristiana. Ed ecco allora, il credo può essere diviso in tre parti. La prima parte ci parla di Dio, amore, Dio Padre, fonte della vita, che dà suo Figlio a noi. La seconda parte ci parla di Gesù Cristo crocifisso e risorto. E la terza parte ci presenta il Padre e il Figlio che donano lo Spirito Santo, fondano la Chiesa come luogo di fraternità. Tutti gli uomini sono chiamati ad essere fratelli in una unica grande famiglia di Dio. La Chiesa come luogo di perdono, di vita nello Spirito, mentre attendiamo il giorno della manifestazione del Signore, quando il Signore ritornerà di nuovo tornerà nella gloria a giudicare i vivi e i morti, quando Cristo verrà glorioso, appunto, a giudicare i vivi e i morti. Sono tre tappe storiche che possono essere facilmente riferite alle tre persone della Trinità. La prima parte a Dio Padre Creatore, la seconda al Figlio Salvatore e la terza allo Spirito Santificatore. riprendiamo. Io credo in Dio, tutti noi diciamocelo così serenamente, siamo credenti e nello stesso tempo tutti noi siamo un po' increduli. Già nel Vangelo coloro che incontravano Cristo dicevano: Signore, io credo, però aumenta la mia fede perché ho l'impressione che è veramente poca. E allora chiariamo un po' che cos'è la fede, perché qualcuno dice delle cose inesatte. Ne cito una frase famosa, intendiamoci, è tante persone dicono: credo solo quello che vedo. È una frase falsa e contraddittoria. Quando si vede non c'è più bisogno di credere, si constata, si ha una dimostrazione. La fede è quando io mi fido di una persona che mi dice delle cose o mi racconta delle verità che io non ho visto e che non conosco e che non posso andare a constatare. Quando si vede non c'è più bisogno di credere, si constata, addirittura c'è la dimostrazione scientifica, come 2 più 2 fanno 4. Ma non si può vedere tutto e constatare tutto. Ecco allora la necessità della fede umana, poi parleremo anche della fede cristiana. Si crede perché lo dice uno che ha visto, sentito, constatato, e non è possibile vivere diversamente. Si crede alla moglie o al marito, si crede al giornale, si crede in Dio, si crede al Vangelo, si crede al barbiere. Certo, ognuno dice la sua, e anche qui bisogna rispettare tutti, anche se dobbiamo aiutarci a capire meglio e a non dire delle cose spropositate. Allora c'è chi dice: Dio esiste, io l'ho incontrato, è il titolo di un libro uscito qualche anno fa. C'è chi dice: Dio non esiste, io non l'ho mai incontrato. Gagarin, l'astronauta sovietico, quando scese dal primo giro attorno alla Terra, gli chiese: per caso hai incontrato Dio viaggiando lassù? E lui disse: no, non ho visto nessuno. Ora, i cristiani, io, la Chiesa, affermano che Dio si è manifestato, che continuamente si rivela, si manifesta, parla, risponde alla domanda che arde nel cuore dell'uomo, quindi non parla solo all'esterno delle persone, ma anche dentro, nelle menti, nelle coscienze. E questa attività di Dio la chiamiamo rivelazione. Cos'è la rivelazione? È la parola di Dio all'uomo per farsi conoscere dall'uomo. Dio ha parlato in modo da farsi capire all'uomo e attraverso questa parola ha cercato di dire all'uomo, per quanto l'uomo può capire, chi è lui, Dio. Dio si rivela prima di tutto nella creazione attraverso le cose che ha fatto, come un artista, un pittore, uno scultore si rivela attraverso i quadri che fa o le statue che fa. Uno vede un bellissimo quadro e dice: questo qui è un bravo autore, come fai a dirlo? Si vede che ha del genio perché è bravissimo a far questo, guarda qui, guarda là. Noi abbiamo l'universo intero creato da Dio. È un'opera splendida e se la guardiamo diciamo: ma ci deve essere qualcuno che l'ha fatto. Tutto l'universo delle cose visibili è segno e manifestazione di intelligenza, di bontà, di amore. Per molti già questa constatazione, questo sguardo sull'universo, sul creato, dà origine a una fede, diciamo, rudimentale. La fede di chi crede che c'è un Dio, non so chi sia, non so come sia, ma uno che ha fatto l'universo c'è. Ossia la fede di uno che crede che Dio esiste e che deve essere riconosciuto come creatore. E siccome ha creato delle cose così grandi, io davanti a lui piego la testa perché io sono tanto piccolo e incapace. Ecco l'atteggiamento dell'adorazione. Ma Dio, che è innamorato dell'uomo, sua creatura, ci parla soprattutto attraverso la sua presenza nella storia umana, incominciando a creare i primi uomini, le prime donne, e attraverso tutta la storia dell'umanità. La rivelazione giudeo-cristiana, quella che noi troviamo sostanzialmente nella Bibbia, completa lo svelarsi di Dio al mondo. E questa rivelazione, questa Bibbia che è parola di Dio, ci dice che Dio è qualcuno, ossia nell'Antico Testamento si pensava che Dio fosse una persona sola. È solo Gesù Cristo che ci ha rivelato che esistono il Padre, Lui e lo Spirito Santo. Lo sanno solo i cristiani, non perché sono più bravi degli altri, ma perché Cristo, Figlio di Dio, ce l'ha detto. Ecco, Dio è qualcuno e, come abbiamo già detto, Dio è la Trinità, tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che sono un solo Dio. Credo in un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. La storia può toccare e tocca di fatto con mano Dio nel corpo stesso di Gesù Cristo, nel quale, come scrive Paolo, apostolo ai Colossesi, abita tutta la pienezza della divinità. È Dio per davvero tutto intero, in quell'uomo Gesù di Nazaret c'è dentro Dio tutto intero, non come in un contenitore, è proprio la persona del Figlio di Dio diventato uomo. Di conseguenza non si tratta più di credere a Dio, alla sua esistenza, ma di credere in Dio che parla e si rivela. C'è una bella differenza tra credere a e credere in. Quando voi dite io credo al macellaio e quando voi dite io credo in mio marito, dite delle cose molto diverse. Credere in una persona vuol dire io lo amo, io mi fido, io mi abbandono nelle sue mani, io l'ho sposato perché ho fiducia, io in quest'uomo entro, la mia vita si mescola con la sua. È un movimento di amore che ci attira l'uno verso l'altro. Questo vuol dire credere in una persona, vuol dire fidarsi profondamente fino alle radici del proprio essere, del proprio amore. Per credere a qualcuno basta vederlo o sentirne parlare. Il primo che passa per la strada dice una cosa, ho creduto a quello lì. Ma per credere in qualcuno è necessario che egli ci ami e che noi lo contraccambiamo almeno un po', ossia che tra me e lui ci sia un rapporto d'amore, di attrattiva, di simpatia. Chi vuole conoscere il tappe di questa presenza di Dio nella nostra storia umana, dunque apra la Bibbia, che è il libro di famiglia in cui Dio e l'uomo raccontano la storia travagliata del loro amore. Dio, come ognuno che ama veramente, agisce più che parlare, fa quello che dice e dicendo spiega ciò che fa. Perché Dio ha dovuto parlare tanto e mettere per iscritto queste parole nella Bibbia? Perché l'uomo alle volte è distratto, non capisce. Succede anche a voi nelle vostre famiglie. Voi fate tante cose importanti per la famiglia, per i figli, e quelli non se ne accorgono, fanno finta di non accorgersi, per cui un giorno o l'altro dovete dire, ma senti figlio caro, guarda, io mi spacco la schiena dalla mattina alla sera, io mi alzo presto, vado a dormire tardi, io risparmio i soldi, guardo anche alle 1000 lire, non ti sei accorto? Devo proprio dirtelo, pensavo che l'avresti capito da solo. Ecco perché Dio parla, perché noi siamo tanto superficiali, tanto distratti che non capiamo i suoi gesti d'amore, per cui deve richiamarci all'ordine e spiegarceli. Tutto l'agire di Dio è amore e tenerezza, ci dice la Bibbia. Basta che il cuore dell'uomo si apra a questa tenerezza divina ed è subito la fede, ossia questo incontro tra un Dio che è desiderosissimo di stringersi al cuore la sua creatura che è l'uomo e l'uomo che magari con un po' di titubanza iniziale sente di essere amato, riconosce che questo Dio è simpatico, gli corre incontro e finisce nelle sue braccia come in un porto, in un approdo dove trova la sicurezza e l'ultimo fine, lo scopo supremo della sua vita. La fede in Dio non è un fatto che si impone universalmente, obbligatoriamente a tutti. Quindi qui bisogna avere anche molto rispetto per i non credenti. Di fatto esistono credenti e non credenti. e i loro rapporti non sono sempre improntati a rispetto e ad amore vicendevole. E qui vorrei dire una cosa. Quasi quasi si potrebbe dire, vabbè, quello è un non credente, quindi se anche mi odia, mi contesta, mi deride, mi osteggia, pazienza, da lui mi posso aspettare tutto. Ma almeno da parte nostra che siamo credenti, che abbiamo conosciuto Dio amore, che crediamo nel Vangelo della misericordia, della bontà e del perdono, ma noi non possiamo prendere atteggiamenti ostili, cattivi, nei confronti di nessuno. Perché molti credenti pensano che ogni persona onesta può conoscere Dio senza esitazione. E allora concludono dicendo che gli atei sono o degli stupidi o dei disonesti. E ovviamente trovano subito un pezzo di Bibbia o di Magistero della Chiesa per dimostrare questo, e ve lo leggo subito, ma subito dopo questo pezzo ne leggeremo un altro che lo equilibra e ci farà capire che la cosa non è poi così elementare. Leggo dal documento dell'ultimo Concilio Vaticano II, la Costituzione dogmatica Dei Verbum sulla parola di Dio, al numero 6, questo brano. In realtà l'ira si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Essi dunque sono inescusabili, perché pur conoscendo Dio non gli hanno dato gloria né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e sragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa. Fino qui è una citazione di Sana Pianta della lettera di Paolo ai Romani. Queste ultime tre righe sono il testo conclusivo del Magistero, appunto, nella Costituzione sulla parola di Dio. Il Sacro Concilio professa che Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza, con il lume naturale della umana ragione, dalle cose create. Ecco, allora il Concilio dice, basta usare bene la testa e l'uomo può conoscere con il lume naturale della sua intelligenza l'esistenza di Dio, principio e fine di tutte le cose. Questo lo può dedurre guardando il creato. Ed è verissimo quello che dice il Concilio. Ma bisogna fare i conti con la mediocrità dei credenti e di noi cristiani in particolare. I credenti e le loro chiese presentano spesso un volto di Dio deformato e inaccettabile. Anche questo lo dice il Magistero della Chiesa. Leggo dalla Gaudium et Spes, la Chiesa nel mondo contemporaneo, documento del Concilio Vaticano II, lo leggo tutto di seguito. Senza dubbio, coloro che volontariamente cercano di tenere lontano Dio dal proprio cuore e di evitare i problemi religiosi, non seguendo l'imperativo della loro coscienza, non sono esenti da colpa. Tuttavia, in questo campo, anche i credenti spesso hanno una certa responsabilità. Infatti, l'ateismo deriva da cause diverse e tra queste va annoverata anche una reazione critica contro le religioni e in alcune regioni proprio anzitutto contro la religione cristiana. Per questo, nella genesi dell'ateismo possono contribuire non poco i credenti, in quanto per avere trascurato di educare la propria fede e per una presentazione fallace della dottrina o anche per i difetti della propria vita religiosa, morale e sociale, si deve dire piuttosto che nascondono e non che manifestano il genuino volto di Dio e della religione. Ripeto, Gaudium et Spes, numero 19. Allora bisogna concludere che la fede nell'esistenza di Dio è possibile. Di fatto, fatto, molti ci sono arrivati. Altri purtroppo no, per motivi che forse solo loro conoscono. Dico forse, perché alle volte non li conoscono neanche loro. Non tocca a noi giudicare quello perché crede o quell'altro perché non crede. Ce lo dice Paolo Apostolo nella lettera ai Romani. Dio giudicherà i segreti degli uomini. E continua, tutti infatti ci presenteremo al tribunale di Dio. Ognuno renderà conto a Dio di sé stesso. Cessate dunque di giudicarvi gli uni gli altri. Pensate invece a non essere causa di inciampo o di scandalo al fratello. Ed ecco allora, forse noi abbiamo sulla coscienza qualche ateo, perché non siamo stati credenti credibili. Certo, di fatto la ragione umana non è arrivata a costruire una rigorosa dimostrazione dell'esistenza di Dio, una dimostrazione scientifica. Non possiamo parlare di prove dell'esistenza di Dio, ma come ci insegna San Tommaso d'Aquino, solo di vie verso Dio, di accostamenti a Dio attraverso la ragione. Dio è rispettoso e non vuole imporsi a noi con la forza o con la dimostrazione scientifica, allora saremmo costretti a credere, non liberi di credere o di non credere. L'esistenza di Dio non è scientificamente evidente e documentabile come il giorno e la notte, no, l'esistenza di Dio non è evidente e ancora meno la natura di Dio. Chi è, com'è questo Dio? Dio nessuno l'ha mai visto, leggiamo all'inizio del Vangelo di Giovanni. Dio abita in una luce inaccessibile, nessuno fra gli uomini l'ha mai visto, né può vederlo, scrive Paolo nella prima lettera a Timoteo. Il regista Clouseau diceva, ciò che mi aiutò a credere fu l'assenza di prove dell'esistenza di Dio, Dio nascosto. Per me questa assenza di prove è la prima prova. Infatti, se Dio rispetta l'uomo, deve volere da parte nostra un'adesione libera. Non ci deve porre nella necessità di credere per forza in Lui. Dio o è invisibile o non esiste. Invisibile come la parte migliore di noi stessi, il mio spirito, il mio amore, il mio principio vitale, ma ovviamente infinitamente più grande, di quella grandezza che non entra nelle dimensioni misurabili. Sì, Dio è un Dio nascosto perché è Dio, lo dice anche l'Antico Testamento, veramente tu sei un Dio nascosto, Dio Salvatore. Ma questo Dio invisibile non potrebbe essere una bella illusione, un qualche cosa inventato da qualcuno e noi creduloni continuiamo ad andargli dietro e a perpetuare nei secoli questa bella storia, questa invenzione. San Giovanni, dopo la frase «Dio non l'ha visto nessuno», soggiunge però «proprio il figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato a noi». È vero, noi non abbiamo mai visto Dio, ma se crediamo, oggi nel 1997, perché Dio ha parlato, ha interpellato l'umanità per dire la propria esistenza ad ogni uomo, per rivelare a tutti il proprio nome, per svelare a tutti il suo amore, i suoi progetti. Dio fa irruzione nel mondo degli uomini per amore. Parla ad Abramo circa 1850 anni prima di Cristo, poi a Mosè e a tutto il popolo di Israele. E infine parla nell'umanità visibile, tangibile di Gesù Cristo di Nazaret 2000 anni fa. E Gesù Cristo di Nazaret è Dio fatto uomo, annunciato nelle scritture dell'Antico Testamento, incarnato nella storia 2000 anni fa in Palestina, morto sotto Ponzio Pilato, risorto, glorificato, sempre presente nella Chiesa e sempre operante nel mondo. Ecco, questa è la fonte del cristianesimo. Certamente non ci sono solo i cristiani a credere in Dio, nel mondo ci sono tantissime religioni. Sotto una forma o l'altra tutto il mondo conosciuto ha affermato l'esistenza di Dio. Oggi egli continua ad animare un dibattito sempre acceso tra chi lo afferma, Dio c'è, e chi lo nega, Dio non c'è. È sempre uno dei temi più ricorrenti e insistenti nella storia dell'umanità, l'esistenza o la non esistenza di Dio. Sono rari coloro che rifiutano una credenza, per esempio credo in Dio, senza rifugiarsi in un'altra credenza, crederanno negli spiriti, nei maghi o in altre cose. Non ci si scarica troppo facilmente di Dio, tanto numerose sono le ragioni per credere che c'è un Dio. Abbiamo concluso dicendo che le ragioni per credere che c'è un Dio sono tanto numerose. Questo problema dell'esistenza o meno di Dio ha sempre interessato tutti i popoli del mondo. Però è giusto anche ci chiediamo, ma quale Dio? E qui dobbiamo ricordare quello che diceva San Tommaso d'Aquino. Anche le nostre più belle parole sul conto di Dio sono paglia. Solo Dio può parlare bene, rettamente di se stesso, di Dio. E quindi per conoscerlo bisogna ascoltare la sua parola, leggere e rileggere la Bibbia e soprattutto nella Bibbia il Vangelo, nella sua quadruplice forma, il Vangelo secondo Matteo, secondo Marco, secondo Luca, secondo Giovanni. È necessario che prendiamo le debite distanze da un certo linguaggio su Dio che non è quello della Bibbia e non è quello dei quattro Vangeli. È il linguaggio, per intenderci, di certi catechismi del passato, il linguaggio delle formule astratte, magniloquenti, molto filosofiche, molto teologiche, che alle volte sapevano più di filosofia greca che di Bibbia. Allora voi direte, ma ci hanno imbrogliato, allora nei decenni passati era falso il catechismo. No, non era falso. Solo che dobbiamo dire, onestamente, Dio non parla in quel modo lì di se stesso. Aprite la Bibbia e voi non troverete dentro quei modi di parlare lì. Un simile linguaggio, per la verità, aveva poca presa allora e oggi non ne avrebbe affatto. Pensate, per esempio, quando si diceva chi è Dio, la risposta era Dio è l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo e della terra, ed è tutto giusto, però, permettete, mancava la parola più importante, quella che c'è nel credo, quella che c'è nei Vangeli. Credo in Dio Padre, è mio Padre. Ora interessa a me se poi anche l'essere perfettissimo, quello viene dopo, perché un essere perfettissimo potrebbe essermi anche avversario e nemico. È mio Padre, quello conta. E avevano tralasciato proprio la cosa più importante. Il Concilio Vaticano II ci ha invitati a cambiare linguaggio. Leggo dalla Gaudium et Spes al numero 62. Il Concilio Vaticano II ci ha invitati a sempre ricercare modi più adatti di comunicare la dottrina cristiana agli uomini della nostra epoca. Perché altro è il deposito o le verità della fede, che quelle non cambiano. Altro è il modo in cui vengono enunziate, rimanendo pur sempre lo stesso il significato e il senso profondo. Allora, il Vangelo, Dio, le verità della fede sono quelle, non cambiano. Possiamo forse, anzi dobbiamo capirle un po' di più, chiarircele un po' di più. Secondo quello che ha detto Gesù nel Vangelo, lo Spirito Santo vi condurrà dentro nella verità tutta intera, quindi avanti che c'è ancora tanto da capire e da capire meglio. Ma è il linguaggio, un linguaggio che deve essere capito dalle persone a cui ci rivolgiamo. Non si può parlare con il linguaggio di 50-60 anni fa. Perché? Ecco perché. L'umanità adesso, in questi anni, sta vivendo la più grande metamorfosi o cambiamento della sua storia, una metamorfosi mai vista fino ad ora. Non è la prima, ma la più macroscopica, la più grandiosa. Lo stesso Dio vuole essere presentato a questa umanità concreta che siamo noi oggi con formule nuove, o meglio, con le formule antiche che lui stesso ha usato, ma ripulite dalle incrostazioni che i secoli, le filosofie, le teologie vi hanno depositato. Ossia, ritorniamo alla sorgente, alla Bibbia, ritorniamo ai primi tempi del cristianesimo per vedere lì alla sorgente, perché poi voi sapete che il discorso, passando di bocca in bocca, rischia poi anche poco tanto di essere deviato. La Chiesa di oggi, se vuole che la sua dottrina sia compresa, non ha altro mezzo che la cultura e le forme di pensiero del tempo e del luogo in cui essa vive. per farsi capire dagli italiani d'oggi bisogna usare le parole che usano loro, andare nelle loro teste, sugli schemi che hanno, diversamente non capiscono. Per predicare il Vangelo a un africano bisogna seguire un'altra strada. Si dicono le stesse verità, bisogna dirgliele secondo le sue possibilità, i suoi schemi, la sua cultura. In passato, e qui i preti credo che lo ricordino bene, la filosofia greca di Platone e di Aristotele, la filosofia che doveva essere ancella a servizio della teologia, purtroppo questa filosofia ha fatto spesso da padrona. Troppa filosofia anche sui testi di teologia in cui ho studiato io. Così certe nostre idee su Dio, che noi ancora oggi crediamo cristiane, in realtà spesso sono un modo di vedere della filosofia pagana, greca o romana, che abbiamo sovrapposto a quanto dice la Bibbia e soprattutto il Vangelo. Dio non può soffrire, ma se la Bibbia dice di sì, Gesù Cristo si è fatto uomo per poter soffrire o morire, perché come Dio non poteva né soffrire né morire. Dicevano i padri della Chiesa, se il Figlio di Dio non avesse già sofferto mentre era in paradiso, vedendo la nostra miseranda situazione sulla terra, non si sarebbe neanche mosso per venire in nostro soccorso. Quindi soffriva già il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, da prima, vedendo queste creature amatissime da loro, conciate in questo modo. Certo che Dio può soffrire, perché se Dio è amore, noi sappiamo che chi ama soffre quando l'amore è rifiutato, quando l'amore non trova accoglienza. Certo, soffre in un modo misterioso da Dio, ma soffre. Soffre volontariamente, non costretto, come succede noi alle volte, che ci cascano addosso delle sofferenze che non abbiamo né cercato né voluto. Soffre liberamente, ma Dio può soffrire. Il Papa Giovanni XX III, nel discorso di apertura del Concilio Vaticano II, l'11 ottobre 1962, afferma, e leggo questo lungo brano di citazione dal suo discorso di apertura del Concilio, ed ecco: lo scopo principale di questo concilio non è la discussione di questo o quel tema della dottrina fondamentale della Chiesa. Per questo non occorreva un concilio, ossia la dottrina la conosciamo già, è lì bella chiara. Ma dalla rinnovata, serena e tranquilla adesione a tutto l'insegnamento della Chiesa nella sua interezza e precisione, lo spirito cristiano cattolico ed apostolico del mondo intero attende un balzo innanzi verso una penetrazione dottrinale e una formazione delle coscienze. È necessario che questa dottrina certa e immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che risponda alle esigenze del nostro tempo. Altra cosa è infatti il deposito stesso della fede, vale a dire le verità contenute nella nostra dottrina, e altra cosa è la forma con cui quelle vengono enunciate, conservando ad esse tuttavia lo stesso senso e la stessa portata. Bisognerà attribuire molta importanza a questa forma, e se sarà necessario, bisognerà insistere con pazienza nella sua elaborazione, e si dovrà ricorrere ad un modo di presentare le cose che più corrisponda al magistero, l'insegnamento della Chiesa, il cui carattere è preminentemente pastorale. Ossia, Papa Giovanni dice: la Chiesa parla ai cristiani per farsi capire, non per fare dei documenti astrusi che sfideranno i secoli lì chiusi dentro nelle biblioteche. Quella è vanità inutile. Bisogna che il Papa, i vescovi, nelle loro lettere, nei loro discorsi, nei loro documenti, il parroco, il prete, il padre di famiglia, parlino in modo da farsi capire. Questa è la finalità del magistero, che è preminentemente pastorale. Per farla breve, noi crediamo nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, nel Dio di Gesù Cristo. Un Dio vivente, non il Dio immobile dei filosofi, Platone, Aristotele. Un Dio di ieri, di oggi, che va verso un domani. Un Dio storico, perché fa storia con noi, che vive la storia con noi, in mezzo a noi, sulla nostra terra di uomini. È qui Dio, non è altrove, non esiste un altrove. Dio non è altrove. Non esiste un altrove, lo ripeto. Spesso confiniamo Dio, ma dov'è? Su al di là delle nuvole. Cosa serve un Dio al di là delle nuvole? C'è solo il Dio con noi, ci insegna il Vangelo, l'Emmanuele, il Dio che si è rivelato in Gesù Cristo. Gesù nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14 dice: se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Chi ha visto me, figlio di Dio diventato uomo, Gesù Cristo, ha visto il Padre. Io sono nel Padre e il Padre in me. Quindi in Gesù Cristo noi incontriamo tutto Dio. Gesù Cristo, figlio di Dio, è colui per mezzo del quale si va al Padre e per mezzo del quale viene a noi lo Spirito Santo, la vita di Dio che ci viene donata. Gesù Cristo è l'unico in senso assoluto che può farci conoscere il vero Dio. Nessun altro, nessun altro. Lo dice Gesù nel Vangelo, Matteo 11:27. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Ecco allora, noi crediamo in questo Dio che Gesù ci rivela. In questo Dio imprevedibile e sconvolgente. Questo è il Dio che dobbiamo annunciare ai nostri figli e al mondo d'oggi. Non dobbiamo quindi aver paura di cambiare linguaggio se quello del passato non è più comprensibile. Non dobbiamo aver paura di liberarci dalle incrostazioni delle filosofie del passato, senza incappare nei disguidi delle filosofie del nostro tempo. Certo, la filosofia è il modo di pensare, di elaborare idee che ha un popolo in un determinato momento della sua storia. Abbiamo bisogno di idee, di linguaggi, ma dobbiamo stare attenti che questi linguaggi della filosofia, che deve essere una serva della teologia, è un modo di esprimersi per far capire meglio il linguaggio di Dio, che questa filosofia da serva non diventi padrona, non metta la teologia sotto i piedi. Ecco, nel credo abbiamo detto, credo in un solo Dio. Credo in un solo Dio non è una dichiarazione che ci lascia beatamente tranquilli, non può lasciarci beatamente tranquilli, è un grido rivoluzionario, è una dichiarazione di guerra. Voi dite, beh, dove la trovi sta dichiarazione di guerra? Credo in un solo Dio, l'abbiamo detto tante volte, siamo andati via svelti. No, no, è un grido rivoluzionario. Credo in un solo Dio e rifiuto tutti gli idoli, tutte le persone o le cose che vogliono essere Dio al posto di Dio nella mia vita. Rifiuto le divinità davanti alle quali si prostra e si prostituisce il mondo, l'umanità. Quali, per esempio? Il potere, il sesso, il Dio quattrino che compra quasi tutto e quasi tutti, altre divinità, le filosofie, le ideologie. Voi sapete quanto in questo secolo le ideologie abbiano fatto da padrone, l'ideologia marxista, leninista, ma non solo, anche tante altre. Nell'impero romano era necessario adorare l'imperatore e altre divinità. I primi cristiani erano quindi perseguitati come atei perché non adoravano l'imperatore come Dio e non adoravano Giove, Giunone, Marte. Voi capite che questi che erano i veri credenti erano ritenuti e dichiarati atei. San Giustino Martire, morto nel 165 d.C., affermava: è vero, dato che noi non crediamo agli idoli dei pagani, siamo gli atei di questi presupposti dei. Noi non ci crediamo, quindi siamo senza quelle divinità lì. Credere in un solo Dio significa rifiuto di ogni potere assolutistico, sia civile che religioso. Rifiuto di atteggiamenti servili davanti ai grandi, ai potenti di questo mondo. E quanti ce ne sono in questi atteggiamenti? Passa un poveraccio, lo si disprezza. Passa il direttore, passa il ricco, ci si scappella. Dio non ha detto che ha una preferenza per i poveri. Allora noi qui siamo ancora tutti da rifare, da convertire. Maria, nel suo cantico, ha proclamato: Dio ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ecco, Dio viene, fa rivoluzione, ribalta il mondo. Dobbiamo anche noi abbattere la selva delle false divinità che umiliano la nostra dignità umana e bloccano la crescita della nostra vera libertà. Diremo, andando avanti nel credo, io credo in un solo Signore, che è Gesù Cristo. Io non ho nessun altro Signore, uno solo, Gesù Cristo. Solo l'adorazione dell'unico Dio ci libera. Servire a Dio è regnare, ma servire agli uomini è essere veramente schiavi. La professione di fede in un solo Dio costituisce un programma quindi di incalcolabile importanza politica, per esempio. Da una parte, questa professione in un solo Dio conferisce ad ogni uomo un carattere assoluto, perché ogni uomo è in contatto direttamente con questo Dio. Ogni singola persona può rivolgersi a Dio senza intermediari. Dall'altra parte, questo credo in un solo Dio e poi in seguito credo in un solo Signore relativizza tutte le società politiche e religiose, per cui possiamo concludere che queste società, queste autorità politiche e religiose o si radicano in questo Dio unico e lo servono, e diciamo subito Dio è amore, il suo è un servizio d'amore, un'autorità d'amore, quindi tutta a nostro beneficio, oppure queste società non sono nulla e non possono pretendere nulla da noi, diciamo, ma venite via da lì perché voi non assomigliate neanche un po' a Dio. Vogliamo fare un piccolo ricordo per molti di noi che c'erano quando sono successe queste cose? Senza l'adorazione cieca di molti cristiani per il potere di Hitler e di altri dittatori di qualche decennio fa, il nazismo e l'ultima guerra sarebbero stati impossibili. Sarebbe bastato che tutti i cristiani, i tedeschi ma anche noi italiani, avessero detto in spirito e verità: credo in un solo Dio, e tu Hitler non sei Dio, e tu Benito non sei Dio, che questi cataclismi non sarebbero successi, li avrebbero tirati giù, perché quando 50 milioni si mettono contro uno lo tirano giù con disinvoltura. Sonnecchiare sul proprio credo porta a gravi conseguenze. Il credo non è un testo da declamare o da abbellire con i ghirigori del canto gregoriano, bellissimo peraltro, o da abbellire con la polifonia o con la musica moderna, tutte belle cose, musichiamo pure anche il credo, ma non è un testo da ascoltare per fare della cultura musicale. Il credo bisogna viverlo. Abbiamo parlato degli idoli che sono esattamente in contrasto con la nostra proclamazione credo in un solo Dio. Quali sono? Ne abbiamo citati tre, più di tre. Ne riprendiamo tre per brevità. Alcuni idoli. Il potere. Allora, secondo il credo, secondo la dottrina cristiana, il potere è servizio. Diversamente è un idolo che corrompe l'uomo e la società. Quelli che stanno al potere devono essere servi del popolo. Il Papa viene giustamente chiamato servo dei servi di Dio. Secondo idolo, il sesso. Il sesso è a servizio dell'amore e della vita, e qui benissimo, è una delle realtà più importanti e più belle che Dio ha creato, tant'è vero che ha legato la nascita delle persone alla vita, e poi in seguito anche la nascita alla vita eterna e tutte le realtà belle al fatto che siamo nati dal sesso dei nostri genitori. Il sesso è a servizio dell'amore e della vita, ma non è un bene di consumo o uno svago, non è un giocattolo. Sganciato dal progetto e dalle finalità che Dio ha affidato al sesso, esso diventa il Dio sesso e ha molti adoratori. Un terzo idolo, l'antidio per eccellenza, è il denaro. Gesù ha usato la violenza fisica una volta sola in vita sua, quando ha cacciato i mercanti, i venditori, i compratori e i cambiavalute dal Tempio. Che ha fatto? Ha cacciato l'antidio dalla casa di Dio. Perché Dio non è in vendita, Dio è amore, e amore vuol dire gratuità. Nella casa di Dio non c'è nulla da vendere e nulla da comperare. Dio è amore e gratuità. Se Dio fosse in vendita, Dio sarebbe un prostituto, perché l'amore a pagamento, l'amore che si compra e si vende, è prostituzione. Lontano da noi questo atteggiamento. Purtroppo qualche volta dobbiamo riconoscere, confessare, pentirci aspramente. Noi abbiamo cercato con le preghiere, coi soldi o con i nostri meriti o con qualche altra cosa di comperare Dio, di tirarlo dalla nostra parte. L'amore di Dio è gratuito, Dio non si lascia comperare né vendere. Luca ci riporta questo insegnamento di Gesù. Nessun servo può servire a due padroni. O odierà l'uno e amerà l'altro, oppure s'affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. E che significa Mammona? Mamun, in lingua aramaica, vuol dire ciò che si possiede. Il nostro possedere, i nostri soldi, le nostre proprietà. Non potete servire a Dio e ai vostri beni che possedete. Una frase fortissima, sconvolgente, la troviamo nella prima lettera di Paolo a Timoteo. L'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali. Vedete che la parola di Dio non dice l'uso del denaro, visto che tutti ne abbiamo bisogno perché per niente non ci danno nulla, non dice l'uso il minimo indispensabile. L'attaccamento al denaro, ossia l'egoismo, l'accapparare, il mettere il denaro al centro della nostra vita, al posto di Dio, è la radice di tutti i mali. Diciamo anche questa, sì. Cristo fu tradito per denaro e l'affare continua anche all'interno della Santa Madre Chiesa. Quante volte si rischia ancora di vendere Cristo, di tradire Cristo per denaro? A questo punto forse sentiamo già qualcosa che stride, che scricchiola dentro di noi. Ci stiamo accorgendo di essere superficiali, di essere gente di poca fede. Ci verrebbe spontaneo cambiare la prima espressione del credo, credo in un solo Dio, in credevo di credere in un solo Dio. Il credo è il simbolo, ossia la parola di riconoscimento, la carta di identità dei cristiani. Più ancora, il credo è a grandi linee lo schizzo della vera immagine di Dio e della storia della salvezza. Ci presenta Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo e tutto ciò che Dio ha fatto per noi uomini e per la nostra salvezza. Allora, non possiamo cambiare il credo, non possiamo cercare di adeguarlo a noi facendocelo su misura. Non va cambiato il credo, dobbiamo convertirci noi. Dobbiamo convertirci al credo se vogliamo essere cristiani, credenti e credibili.